giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendio a Udine in un condominio ai Rizzi, 4 persone all'ospedale per intossicazione da fumo, 1 è grave. 9 anni fa finiva gli arresti domiciliari per corruzione, oggi è stato prosciolto ma la sua azienda si è dissolta. Intervista con l'imprenditore Giuliano Vidoni. Partita la campagna dell'ARPA per il monitoraggio delle acque di balneazione, prima tappa Trieste. Il Friuli Venezia Giulia e Vinitaly, una partecipazione mai così folta, Gorizia presenta gli eventi da città del vino. Morto a Trieste Samo Pahor, figura di spicco della comunità slovena, aveva 85 anni. Paura alle spalle per Evan Dika, il giocatore giallorosso avrebbe accusato una compressione polmonare, ora bisogna decidere quando completare Udinese-Roma. Sono le 12:31 minuti, 20 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Livia Liberatore. In apertura le notizie di cronaca, 15 persone sono state soccorse questa mattina per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato a Udine in un condominio in via Valsaisera nel quartiere dei Rizzi, 4 quelle che sono state portate in ospedale, una è in gravi condizioni per aver inalato il fumo a lungo. Sentiremo fra pochissimo la cronaca di questa mattinata udinese, però intanto vediamo la vicenda di Giuliano Vidoni. Sono trascorsi 9 anni da quando imprenditore edile a capo di un'azienda che allora contava su 250 dipendenti finiva agli arresti domiciliari per corruzione. Il percorso giudiziario si è concluso pochi giorni fa con il scioglimento da quell'accusa, ma nel frattempo l'impresa si è dissolta. Abbiamo incontrato Vidoni nel giorno del suo 79esimo compleanno, ecco cosa ci ha raccontato. Chi mi ridarà più l'impresa a me che l'abbiamo persa? Era un'azienda con grandi capacità produttive, attrezzata, aveva 250 persone in assunzione, in contratti continuativi e aveva anche un portafoglio ordini che riguardava 180-200 milioni di euro. Per cui quello che è successo è stata una distruzione totale. Dopo tutto quello che ho passato, l'obiettivo della soluzione è stata una grande gioia, ma non tanto quanto la disperazione per aver perso l'azienda. 9 anni non sono un po' tanti per avere una sentenza. C'è chi ha patteggiato anni e anni prima, quindi la sua posizione giudiziaria si è risolta molto prima di lei. I colpevoli sostanzialmente l'hanno risolta prima di lei. Certo, quelli hanno risolto prima anche forse perché non avevano l'esigenza di dimostrare qualche cosa. Noi abbiamo dovuto aspettare i tempi della giustizia per dimostrare la nostra verità. Il Tribunale di Udine nel concordato fallimentare ha rimesso in bonis la Vidoni S.p.A. e naturalmente con questo criterio noi abbiamo la possibilità di farla ripartire. Ora io però ho 79 anni, non so se avrò ancora la forza e la voglia di ripartire su di un mondo, speriamo che qualcuno della mia famiglia abbia questo coraggio. Il consiglio che darei ai giovani imprenditori è quello di difendere al massimo possibile quelli che sono i diritti dell'impresa nei confronti qualche volta di qualche amministrazione che magari ritiene di superarli attraverso ragionamenti non giusti e non equi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora l'incendio che si è sviluppato stamattina a Udine in un condominio in via Valsaisera nel quartiere dei Rizzi. 15 persone sono state soccorse, 4 portate in ospedali, una delle quali è in gravi condizioni per aver inalato il fumo a lungo. Vediamo il servizio. 15 persone ospedalizzate per intossicazione, una in gravi condizioni, altre 3 trasportate in ospedale in condizioni meno serie. E il bilancio dell'incendio scoppiato alle 8:45 in una palazzina Ater di via Valsaisera 1 nella zona nord-ovest di Udine. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco, un'autoscala, il nucleo batteriologico e chimico, un'automedica, 4 ambulanze e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, l'incendio si è sviluppato in una cantina della palazzina composta da 31 appartamenti. Un denso fumo nero è risalito dalla tromba delle scale coinvolgendo gli appartamenti. Andrea Dodorico, funzionario dei Vigili del Fuoco. Un intervento difficile e complesso proprio per la quantità di fumo che si è sviluppata in questo incendio, che è partito da una cantina, da uno scantinato, e quindi anche la difficoltà, no, dell'evacuazione dei fumi nella prima fase dell'incendio, fino a quando non siamo intervenuti, ha fatto sì che questi fumi interessassero in particolare un vano scala di questo condominio. Lorenzo Puzzi, direttore ATER Udine. Noi stiamo verificando quello che abbiamo internamente di disponibile, oppure abbiamo anche già contattato i servizi sociali del comune per vedere se riusciamo a trovare insieme delle soluzioni qualora le nostre non fossero sufficienti. Evacuate dai Vigili del Fuoco tutte le persone presenti negli immobili e indagini sull'accaduto da parte dei carabinieri del capoluogo friulano. Si è sentito un grandissimo rumore di una bomba tipo che esplosa e i vicini sentivo che urlavano. Io quello che ho fatto, insomma, è stato rintanarmi nella camera più sicura e avvolgermi con un panno bagnato in modo da non respirare l'aria che c'era. Tutto di un tratto è andata via la luce, è scomparso il segnale della televisione. Stavo andando a chiedere a qualche persona se avevano il segnale della televisione. Il tempo che apro la porta d'ingresso mi è arrivata tutta una vampata in faccia di fumo, non si vedeva più niente, la casa tutta invasa. E non respiravamo più io e neanche mia moglie. È stato commovente l'abbraccio al Vigile del Fuoco? Sì, perché glielo dovevo. È stato grandioso perché per me sono la mia vita. E non è così scontato che in un momento del genere c'è chi si adopera a pensare anche a loro, no? E quindi, anche perché sopra era monossido pieno, quindi mi metto assolutamente non puoi andare su. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È cominciata oggi la prima campagna mensile di campionamento delle acque di balneazione in Friuli Venezia Giulia. Come previsto dalla legge, deve cominciare 15 giorni prima dell'avvio della stagione balneare in calendario il 1 maggio. I controlli riguarderanno anche le acque interne, non solo il mare. Comincia oggi la campagna mensile di campionamento, la prima del 2024, nelle zone balneabili di mare e non solo. Sono oltre 60 punti. Alanna Lutman, direttrice regionale di ARPA Friuli Venezia Giulia, chiediamo come si svolge questo tipo di attività. Si svolge mensilmente, il primo campionamento inizia circa 15 giorni prima della data di balneazione, che Friuli Venezia Giulia è il 1 maggio, quindi noi oggi iniziamo il primo campionamento con delle date indicate dal Ministero di concerto con la Regione, quindi noi sappiamo già le date in anticipo, dobbiamo rispettare il programma. Una volta al mese campioniamo, portiamo in laboratorio i nostri campioni per fare l'analisi degli escherichiacoli, degli enterococchi, e solo a mare, perché solo a mare si fa quella verifica, anche della microalga Osteopsis ovata, che è un problema solo del mare, non delle acque interne. Che l'anno scorso ha creato qualche, diciamo, grattacapo. Più che un grattacapo, un piccolo preallarme, perché noi lavoriamo sempre in preventiva. Quando ci siamo accorti di questo problema siamo tornati subito a campionare di domenica, appunto, per far sì che, insomma, i nostri cittadini possano andare tranquillamente a fare il bagno. In più c'è stato un piccolo problema anche a Duino, anche quello in via di risoluzione? Sì, il problema di Duino è in via di risoluzione. L'anno scorso ha avuto una classificazione delle acque che gli permettevano la balneabilità, adesso c'è tutto un percorso da fare che dura 3-4 anni e alla fine di questo percorso potrà ancora aumentare di classe e di qualità. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo il tempo, cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna, ecco le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, a Gorizia 24, a Udine 21, a Pordenone 20, a Tarvisio 19 gradi e mezzo, a Tolmezzo 19, Forni di Sopra 16 gradi e mezzo, Sappada 14 e mezzo, Piancavallo 13 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncolan 9 gradi. A Lignano 21 gradi, a Grado 20. Previsioni a cura dell'ARPA: dal pomeriggio sui monti avremo cielo nuvoloso con piogge sparse, forse qualche temporale, in pianura variabile, ma non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso sera. Sulla costa cielo poco nuvoloso. Domani cielo in prevalenza coperto, precipitazioni intense sui monti, specie sulle Alpi e sulle Prealpi Giulie, da moderate ad abbondanti sul resto della regione, con probabili temporali. Quota neve inizialmente oltre i 2000 metri, dal al pomeriggio in calo fino a 1300 metri sulle prealpi carniche, 900 sulle alpi carniche e sulle prealpi giulie, fino a 600 metri nel tarvisiano. Al mattino soffierà vento moderato da sud, dal pomeriggio da nord sostenuto con raffiche di bora anche forti sulla costa, temperature in deciso calo. 4 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 40 punti di patente decurtati e 2 veicoli sequestrati per la confisca. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia di Udine nella notte tra gli scorsi sabato e domenica su 160 veicoli. Nessun conducente neopatentato è risultato positivo, un dato che secondo la polizia conferma come giovani guidatori siano i più disciplinati. Prosegue a Udine il programma di eventi pubblici sul tema della sicurezza e della partecipazione attiva. Oggi il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza illustrerà ai cittadini le tecniche e gli strumenti migliori per tutelarsi dagli acquisti e dalle vendite aggressive, in particolare quelle telefoniche online. Alle 18.30 nella Fondazione Casa dell'Immacolata nel quartiere di San Domenico. Gorizia è ancora protagonista a Vinitaly, con la presentazione proprio in questi minuti nello stand della regione del 22esimo concorso enologico internazionale Città del Vino, che quest'anno si svolgerà nel capoluogo isontino dal 31 maggio al 2 giugno. La manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Città del Vino in collaborazione con il coordinamento del Friuli Venezia Giulia. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile, mentre i dettagli per il concorso e del programma saranno presentati prossimamente a Roma, nella sede istituzionale della regione e in comune a Gorizia. Intanto prosegue la partecipazione regionale alla rassegna veronese, una delle più numerose qualificate degli ultimi anni. Il vino della regione si mette in mostra. Nella settimana di Vinitaly, il Friuli Venezia Giulia è presente a Verona con numeri in crescita. Francesco Miniussi, direttore ERSA. La regione tramite l'ERSA, tramite il consorzio delle DOC, tramite l'assessorato all'agricoltura, porta le aziende vitivinicole che hanno vigneti e unità di produzione nel territorio regionale. Ci sono vari format, c'è il format principale che è il cosiddetto dello stand della collettiva regionale, dove c'è un unico grande spazio, circa 1600 metri quadrati, in questo momento si sta ravvivando, con 90 aziende agricole, per la prima volta quest'anno organizzate e dislocate a seconda della zona di denominazione di origine a cui fanno riferimento. Oltre a queste 90 abbiamo ulteriori 28 aziende che partecipano comunque al sistema, che in qualche modo partecipano anche a quella che è la grande enoteca della regione, che in questo momento è presso il Vinitaly. In questa enoteca abbiamo 472 etichette, è la più grande di tutto il Vinitaly. E poi abbiamo ulteriori 21 aziende, tutte nello stesso padiglione, che diciamo così agiscono in maniera autonoma, ma comunque fanno parte di un sistema regionale particolarmente evoluto. Il mondo vitivinicolo regionale gode di ottima salute, insomma, anche se contrastare il cambiamento climatico, o meglio adattarsi, è la sfida dei prossimi anni, anche andando a coltivare aree impensabili fino a 10 anni fa. Sicuramente cambieranno le quote. Già adesso ci sono alcune zone del piedemontano e della montagna che stanno cominciando a provare una viticoltura e chiaramente fino a poco tempo fa questo non c'era. Sul resto del territorio è importantissimo quello che sta facendo la regione, sostanzialmente gestire con l'irrigazione, con la microirrigazione in particolare, tutte quelle situazioni dove potrebbero esserci dei problemi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. All'Università di Trieste compie 100 anni la Facoltà di Economia, che fu la prima dell'Ateneo. L'attuale Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche festeggia il traguardo con un evento in programma alle 17 nell'Aula Magna dell'Università. 5 ex studenti, oggi dirigenti di importanti aziende e istituzioni, si sottoporranno, per così dire, a un appello d'esame sui cambiamenti della società e dell'economia contemporanea. In chiusura, l'attrice Ariella Reggio vestirà i panni di una studentessa molto fuori corso. È morto a Trieste Samo Pahor, figura di spicco della comunità slovena, soprattutto per la sua lunga battaglia a favore del bilinguismo integrale con l'associazione Edinost. Manifestò per anni in Piazza Unità con i suoi cartelli, con i quali evidenziava gli articoli della Costituzione che garantiscono i diritti delle minoranze. Ex docente di storia nei licei sloveni, dove è stato anche preside, tra pochi giorni avrebbe compiuto 85 anni. Appuntamenti politici di oggi. Il comitato No Ovovia promuove a Trieste un confronto pubblico sulle misure di compensazione ambientali proposte per il progetto di realizzazione della cabinovia. L'incontro è in programma al Circolo della Stampa alle 17. Il comitato vuole fare una disamina del lavoro commissionato dal Comune all'Università di Udine sulle compensazioni, appunto, da introdurre perché il collegamento fra Trieste e il Carso non generi un danno all'ambiente ma un miglioramento complessivo. A Trieste si riunisce alle 20 il Consiglio della Quinta Circoscrizione. In programma la discussione e il parere sulla proposta di variante al piano regolatore generale comunale per il comprensorio ex Pavan. Il Comitato Insieme San Giacomo, che si oppone al progetto di realizzazione di un impianto sportivo coperto al posto di quella che fu una trattoria con annessi campi di bocce, ha fatto sapere che la cittadinanza potrà assistere alla seduta. In vista della giornata mondiale di mobilitazione per il clima, Fridays for Future, Greenpeace e Rete Eco Socialista hanno organizzato a Trieste un dibattito dal titolo Una giusta causa per il pianeta. Il tema è la causa civile con la quale Greenpeace, Recommon e 12 privati cittadini hanno citato Eni in tribunale al CNULP alle 18. Si avvicina l'apertura al pubblico del Parco Monumentale di Palazzo Antonini Maseri di Udine. Con la firma di un accordo stamattina, il giardino è passato dalle mani dell'Università cittadina a quelle del Comune. Una gemma verde incastonata nel centro storico della città. Il Parco Monumentale di Palazzo Antonini Maseri di Udine, donato all'Ateneo Friulano dal professor Attilio Maseri assieme al Palazzetto Palladiano, già sede della Banca d'Italia, è stato ceduto gratuitamente per 10 anni dall'Università al Comune di Udine. L'atto è stato sottoscritto dal sindaco della città, dal rettore e dal presidente della Fondazione Friuli. Nel documento viene specificato che gli oneri ordinari e straordinari di manutenzione spettano al Comune. La Fondazione Friuli garantirà invece, grazie alla recente ristrutturazione del contiguo Palazzo Antonini Stringer, un passaggio di collegamento tra il giardino e via Gemona. Due parti della città che si collegano dunque con un nuovo accesso da Piazza Primo Maggio al centro cittadino e alla sua nuova area pedonale di Piazzetta San Cristoforo. Con la stipula di questo atto, ha sottolineato il rettore Roberto Pinton, riusciamo a restituire alla nostra comunità un giardino storico meraviglioso, realizzando il desiderio del professor Attilio Maseri, che ha donato all'Università del Friuli il Palazzo Palladiano, oggi sede del rettorato, e il suo parco monumentale. Il parco, che è sottoposto al vincolo delle belle arti, necessita di alcuni lavori di messa in sicurezza, sia dei percorsi che delle alberature. L'amministrazione udinese ha ipotizzato un primo intervento per l'aggiornamento dell'impianto elettrico, delle forniture, delle fontane e della costruzione circolare in pietra, per passare poi ad un idoneo arredo urbano. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'ultimo fine settimana ha consentito in tutta Italia di andare alla scoperta dei cammini nel progetto Scopri l'Italia che non sapevi. Tra gli itinerari in regione c'era il cammino celeste nell'Aquileiese. Da Aquileia verso Grado sulla ciclovia Alpe Adria e il tratto costiero del Cammino Celeste, il cui percorso completo conta 210 chilometri fino al Monte Lussari, giungendo a Belvedere di fronte alla laguna tappa al monumento di Eligio D'Ambrosio. Sentiamo Aurelio Pantanali, presidente del Circolo Culturale Navarca. Questo monumento, che inaugureremo domenica 28 aprile, è il quinto monumento collocato lungo il Cammino Celeste e ha due aspetti: l'aquila patriarcale dedicata al nostro Friuli. Sull'altro lato troviamo alcuni aspetti simbologici della vita di San Marco ed in particolare le colombe, un segnale di pace nella nostra vita. Poi strada bianca nella bonifica sul versante ovest per arrivare alla chiesetta di San Marco nascosta nella pineta secolare. Questo luogo rappresenta il punto preciso dove l'apostolo Marco sbarcò nel 50 d.C. e qui incontrò anche Ermagora come primo suo discepolo, che fu eletto vescovo di Aquileia. Infine ultimo tratto lagunare fino alla foce del Natissa, la via fluviale dell'antica Aquileia. Sentiamo i commenti di alcuni partecipanti alla camminata. Il turismo lento mi piace perché mi permette di fare esperienza di questi luoghi ricchi di storia e i paesaggi, fare delle belle conoscenze e passare appunto dei momenti di qualità in mezzo alla natura, all'aria aperta. Mi aspettavo di conoscere più profondamente questo cammino celeste, questo pezzo di storia di Aquileia, della Via Flavia, un qualche cosa di più approfondito. Io come guida credo che la scelta di un cammino che ha comunque uno sfondo religioso sia collegata ad una fede che spesse volte non è neanche detto che sia in qualcosa di puramente religioso, ma anche solamente la fede nei propri piedi e nella possibilità di farcela a fare un'esperienza di questo tipo di esplorazione di sé. Non ero preparato per fare tutta questa strada, quindi c'è stato questo mix di novità dal punto di vista paesaggistico, culturale e anche fisico, perché le gambe mi dicono di riposare un attimo adesso. Aquileia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. 100 appuntamenti in calendario, 200 personalità del mondo della letteratura, della scienza, dell'arte e dell'informazione sono i numeri presentati oggi del Festival Vicino Lontano, premio Terzani, che si svolgerà a Udine dal 7 al 12 maggio. Tra gli ospiti Nadia Orbinati, Francesca Mannocchi, Lucio Caracciolo, Luciana Castellina, Paolo Rumiz. L'edizione, che segna il ventennale dalla scomparsa di Tiziano Terzani, si aprirà con la proiezione in chiesa di San Francesco del film documentario Tiziano Terzani, Il viaggio della vita. Gli spettacoli di stasera al Teatro Verdi di Pordenone arriva oggi e domani Silvio Orlando, protagonista della commedia Ciarlatani di Pablo Remon, una satira sul mondo del teatro, della televisione e del cinema, ma anche una riflessione sul successo e sul fallimento. Si ride anche a Rossetti di Trieste con Ti posso spiegare, in cui Katia Follesi, Angelo Pisani, marito e moglie nella vita, raccontano i mille imprevisti nell'organizzazione di un matrimonio. Al Teatro Zancanaro di Sacila proda invece alle 21 Quasi amici con Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Lo sport, il calcio, paura alle spalle per Evan Dicà, il 24enne giocatore della Roma che ieri sera allo Stadio Friuli ha accusato un malore per il quale la partita è stata sospesa. Il calciatore ivoriano ha trascorso la notte all'ospedale di Udine, dove gli accertamenti sono proseguiti stamattina. Scongiurato il problema cardiaco, l'attacco avrebbe evidenziato una compressione polmonare, probabilmente causata da uno scontro di gioco. Il giocatore dovrebbe rientrare a breve nella capitale e intanto si ipotizza la data per il completamento della gara, che ieri è stata interrotta quando le squadre si trovavano sul risultato di 1-1. Evan Dinka sta meglio, così diventa naturale pensare anche a quando verranno recuperati i minuti rimanenti di Udinese-Roma, interrotta il 27esimo della ripresa sul parziale di 1-1. Molto dipenderà dall'esito del ritorno dei quarti di Europa League dei giallorossi giovedì contro il Milan, tenendo conto che lunedì 22 aprile la squadra di De Rossi affronterà in casa il Bologna in una sfida fondamentale per la corsa in Champions. L'ipotesi che si fa largo è quella di giocare giovedì 25 aprile, ma c'è anche la possibilità che se la Roma dovesse arrivare in fondo all'Europa League si potrebbe recuperare la gara o nella settimana della finale di Coppa Italia, in programma il 15 maggio, o in quella di Conference, da disputare il 29 maggio. In ballo, oltre alla qualificazione in Champions dei giallorossi, anche la corsa salvezza dell'Udinese, che oggi si trova con un punto soltanto di vantaggio sulla zona retrocessione, prima dello scontro diretto di sabato sera a Verona con l'Ellas. Da sottolineare infine la presa di coscienza da parte di tutto, soprattutto dei tifosi presenti allo Stadio Friuli, quando è stata decisa la sospensione della gara. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pallavolo è già storico, il traguardo raggiunto dalla CDA Talmassons, che approda alla finale promozione per la Serie A1 femminile, è la prima squadra regionale ad arrivare sulla soglia dell'eccellenza nazionale. La squadra friulana ieri ha vinto infatti in trasferta a Messina la partita decisiva della semifinale, un match chiuso in 3 set con grande autorevolezza. Ora per la promozione la CDA dovrà affrontare Busto Arsizio, la prima partita in trasferta sabato, poi il ritorno alla tisana il 25 aprile. Il basket, la penultima giornata della fase orologio, riconsegna 1-2 che va verso i play-off, con qualche verdetto ancora da emettere. Non è ancora deciso il destino di Trieste, che ora rischia di venir superata in classifica da una Gesteco in vertiginosa crescita. Ieri la sconfitta interna dei biancorossi, 86-84 contro Milano. e ora addirittura il quinto posto è a rischio, con l'ennesima gestione curiosa nei finali da parte della panchina, 6 sconfitte su 8 partite punto a punto. La Pallacanestro Trieste rinvia all'ultima giornata la posizione con cui arriverà ai playoff. Servirà una vittoria a Rieti per evitare di essere raggiunti e superati da Rimini e Cividale. Nello scenario peggiore, la squadra che per la proprietà avrebbe dovuto dominare il campionato chiuderebbe 7ª su 12 e affronterebbe al primo turno in trasferta Cantù. Ritrovato anche solo parzialmente Brooks, contro l'Urania Milano la squadra di Christian si appoggia alla triestinità di Bossi, De Angeli e soprattutto Ruzier, che però dopo alcune azioni chiave che avevano dato il là alla fuga, prima si becca tecnico e poi si trova accoppiato, grazie alle strategie del coach, a un avversario più grosso. Quinto fallo e luce spenta per la squadra, con Candussi esposto in difesa a 8 metri dal canestro e Amato, che questi tiri li prende e li segna da 10 anni, a ringraziare per due volte di tanta grazia. In attacco invece, tra le palle perse e brutti tiri, la palla non entra praticamente più. Il ricorso all'errore volontario ai tiri liberi per cercare di conquistare il rimbalzo offensivo non funziona. 84-86 per la seconda squadra di Milano, senza particolare motivazione e reduce da brutte sconfitte. Trieste perde così per la sesta volta nella fase ad orologio. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Allo Stadio Friuli sono stati presentati gli atleti che saranno ambasciatori del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Sono 18, quasi tutti saranno protagonisti dei prossimi giochi olimpici estivi di Parigi e invernali di Milano Cortina. Sono complessivamente 18 gli atleti della nostra regione che porteranno in giro per il mondo il brand ambassador Io sono Friuli Venezia Giulia. Una mission soprattutto per coloro che parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, che inizieranno a fine luglio, e a quelli invernali di Milano Cortina del 2026. Jonathan Milan, corridore di buia, dovrà difendere l'oro conquistato nell'inseguimento a squadre su pista ai Giochi di Tokyo nel 2020. È comunque un grandissimo orgoglio per rappresentare la propria regione e cercherò di portare la nostra bandiera un po' più in alto possibile, e quindi certo sarà difficile, però ci darò il massimo. Accanto a Milan hanno già ottenuto il passo olimpico la schermitrice Mara Navarria, bronzo nella spada a squadre nell'ultima edizione dei giochi, e tra i paralimpici Matteo Parenzan e Giada Rossi saranno nella capitale francese a fine agosto impegnati nel tennis tavolo. Nel nuoto si giocherà invece il passo olimpico Matteo Restivo al trofeo Sette Colli di Roma, in programma il 23 di giugno. Con tutta probabilità nel 2026, ai Giochi Invernali di Milano Cortina, Mattia Variola sperimenterà la nuova pista di bob di Cortina d'Ampezzo, che tanto ha fatto tribolare il comitato organizzatore dei giochi. C'è stato qualche problema, qualche criticità con la pista, da livello proprio di progetto. E avremo la pista, se Dio vuole, per le prossime Olimpiadi, spero vivamente che dal Friuli altri possano pilotare in questa pista. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Livia Liberatore e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Riccardo Ostojic e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:58, prossima edizione alle 15, grazie per il vostro ascolto, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.